Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Chi avrà perso l'attimo fuggente? L'Inter, che poteva tornare a più 7 e a più 8 rispettivamente su Milan e Juventus, o il Milan, che poteva risalire addirittura a meno 2 dall'Inter, o la Juventus, che sarebbe rientrata a meno 3 senza l'ulteriore sconfitta di Bari? Ma di sicuro c'è che la Coppa dei Campioni costa, anzi la Champions League per il momento costa, se è vero che tra Inter, Milan, Juventus e Fiorentina ieri in 4 squadre su 12 punti disponibili ne ha messo insieme uno, cioè il pareggio dell'Inter a Bergamo, e le altre tre hanno perse. Questo è un dato di fatto indiscutibile. Poi su tutto il resto possiamo ragionare, un ragionamento mi piacerebbe proporvelo proprio su questo argomento. Vediamo altri numeri di giornate, perché i numeri dopo 16 giornate cominciano a raccontare qualcosa di abbastanza serio. Intanto il Milan ha perso dopo 10 giornate di imbattibilità ed era la striscia più lunga e più positiva per una squadra di Serie A, così come quella più negativa era quella della Lazio, che ha spezzato l'attesa che durava da 13 turni di campionato, e risaliva l'ultima vittoria risaliva addirittura al 30 agosto a Verona contro il Chievo. Il rimando al Chievo è il più significativo forse della giornata di oggi, perché se si paragonano le due classifiche dello scorso anno e quella attuale, la differenza, il saldo positivo, la differenza di punti in più che ha il Chievo è semplicemente sbalorditiva, cioè ha 15 punti in più della stagione scorsa. Ora è vero che lo scorso anno a questo punto era quota 9 e si diceva che praticamente, insomma, il Chievo era, se non già retrocesso, quasi. Invece il Chievo infilò una rimonta incredibile nel finale dell'andata e nel giorno di ritorno, proprio con Mimmo Di Carlo, l'attuale allenatore, e si salvò con anticipo. Ma insomma, più 15 dopo 16 giornate di campionato è veramente uno score abbastanza sbalorditivo, mentre le due squadre che hanno perso più punti rispetto a un anno fa sono l'Atalanta a meno 11 e il Catania a meno 13. Ho parecchi altri numeri da proporvi, curati come sempre da Franco Piantanida, e sono numeri curiosi e in qualche caso assai interessanti. Comincerei però da qualche rivisitazione delle tappe principali di questi due giorni, e allora comincerei da Beppe Baresi dopo il pareggio di Bergamo. Tante volte le partite sono decise da episodi, questo è stato un episodio negativo per noi, dato che avevamo in mano la partita, la squadra si stava esprimendo più che bene. L'episodio della seconda ammonizione di Schneider ha un po' condizionato il resto della gara. Peccato, perché la squadra aveva dimostrato di meritare la vittoria. Questo è il commento di Beppe Baresi al pareggio dell'Inter. Sentiamo quello di Leonardo in attesa sconfitta del Milan col Palermo. Dobbiamo dare tanto merito al Palermo, credo che Palermo si è presentato in un modo, diciamo, in tutti i sensi molto bene, a livello tattico, a livello fisico e sicuramente con giocatori di grande qualità. Credo che un primo tempo forse le occasioni del Palermo sono state più chiare delle nostre, ma hanno anche concesso, perché Palermo, anche se gioca in un modulo diverso, è un po' come noi, porta tanta gente in attacco cercando sicuramente di portare tanta gente alla metà campo avversario, per quello credo che è stato un po' una partita molto aperta alla pari, e i due gol sicuramente all'inizio del secondo tempo hanno determinato il risultato. Un risultato che peraltro poi il Palermo ha meritato in pieno, giocando tra l'altro un ottimo calcio. È un Palermo diverso da quello che ci aveva mostrato Zenga, è indubbio che così per queste primissime partite con Delio Rossi un salto di qualità secondo me, ma non soltanto secondo me, si è oggettivamente visto. Un passo indietro a sabato pomeriggio, perché quel settimo gol consecutivo che Matri ha segnato con la maglia del Cagliari, nella fattispecie quello del pareggio 2-2, ha eguagliato il record di Gigi Riva della stagione 71-72, cioè c'era stato un altro cagliaritano che aveva segnato in 7 giornate consecutive. Beh, insomma, era successo quasi 40 anni fa, e quel tale si chiamava niente meno che Gigi Riva. Quindi Matri può andare fiero di aver eguagliato questo record, avendo poi sempre la speranza e magari anche la possibilità di batterlo la prossima domenica. Vediamo un po' dove, già che ci siamo, il Cagliari giocherà a Udine, che non è certamente in un ottimo momento. Continua a salire la media gol di Diego Milito, che è davvero impressionante, ha segnato il 34esimo gol in 45 partite di Serie A ed è una media che lo pone alle spalle del solo Nordahl, quindi di un mito del calcio degli anni 50 come percentuale realizzativa. Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte, poi ieri se l'è molto presa Gasperini con l'arbitro Celi, con l'arbitro di Lazio-Genoa, ma insomma non c'è dubbio che Genoa fuori le mura stia facendo molta fatica. Dicevamo della vittoria del Palermo a Milano e non c'è nessun dubbio che il protagonista assoluto sia stato Miccoli, perché un gol l'ha firmato e l'altro lo ha inventato con una azione addirittura funambolica sulla sinistra che poi si è sviluppata a centro area. Sentiamo Miccoli. È stata veramente una grande prova, abbiamo fatto una grande gara, meritata, il risultato è meritato, sono contentissimo, quindi è una gioia. Noi abbiamo voltato pagina, stiamo seguendo il 100% quello che vuole Mise, abbiamo cambiato totalmente lavoro, io sinceramente mi trovavo bene anche con Zenga, tra l'altro lo saluto, e siamo tutti col Mister, stiamo andando bene, quindi è una soddisfazione per il Mister, per la squadra, per la società e soprattutto anche per i nostri tifosi. Beh, insomma, c'è bisogno di sentire ogni tanto le voci contente e soddisfatte. Adesso ne sentiamo un'altra che è forse, no, come voce non è certamente la più sorprendente, ma insomma come avventura in assoluto direi di sì. Vi ho parlato del Chievo, c'è da ricordare il Bari e il Chievo a quota 24 dopo 16 giornate di campionato, sono credo i due risultati forse più sorprendenti in assoluto, da dividere però con i 28 del Parma. Il Parma è più attrezzato da tutti i punti di vista rispetto a queste due società, però insomma il Parma di punti ne ha 28 e attualmente è al quarto posto con un buon margine sulla quinta, e quindi la parola a Guidolin. È stata una partita straordinaria del Parma, ma veramente molto bella, perché abbiamo comandato il gioco dall'inizio alla fine. Io ero contento anche dell'1-1 perché avevamo fatto mille occasioni da gol, abbiamo preso gol in contropiede, abbiamo sbagliato un calcio di rigore e quelle sono le partite che quando sembra che la palla non voglia entrare. Ma i miei ragazzi sono stati ancora una volta più bravi di me e ci hanno creduto fino alla fine, e alla fine hanno gioito meritatamente insieme alla nostra gente, perché è arrivata una vittoria sofferta ma ultra meritata. Quindi direi che questa è l'analisi oggettiva, equilibrata della partita, e la mia contentezza oggi è a 10 lode. Oggettiva e equilibrata, insomma, tenendo conto di un paio o tre di episodi da una parte e dall'altra, io non ci scommetterei, ma insomma si sa che alla fine di ogni partita le analisi degli allenatori, ma anche dei dirigenti, ma anche dei giocatori, sono sempre oggettive e equilibrate per quel che possono esserlo. C'è un argomento che mi viene sollecitato già da molti messaggi. Per il momento preferirei dar retta a Gibril D'Alegnano, che mi chiede di citare il fantastico gol di Maccarone, e sono d'accordissimo, prodezza assoluta, se quel gol di Maccarone lo segna uno di altro nome, di altro cognome e magari di altra provenienza, chissà per quanto se ne parla. L'ha segnato Maccarone, è giusto che se ne parli ugualmente, perché è stato un capolavoro nel suo genere. Qui si tratta di destreggiarsi tra due messaggi. Uno scrive, Davide scrive, mi fa un editoriale su Mourinho. Nicola da Aversa, il messaggio successivo dice, per favore, almeno lei non parli ancora di Mourinho, francamente sembra lo faccia apposta a tirare su di sé l'attenzione. Nicola da Aversa, insomma, mettetevi d'accordo, se ne devo parlare o non ne devo parlare. Editoriali no di sicuro, anche perché non mi pare che un'azione di così infimo cabotaggio come quella di ieri meriti un editoriale, al massimo merita una semplicissima censura, forse merita semplicemente il racconto di quello che è accaduto. Ve lo trasmetto per come, insomma, ve lo giro per come è stato riportato dal Corriere dello Sport, cioè dalla testata uno dei quali giornalisti è stato, diciamo, pure vittima di questa lezione di educazione da parte di Mourinho. Il nostro collega Andrea Ramazzotti scrive: uno dei due inviati, l'altro inviato a Bergamo, Alberto Polverosi, ha chiesto al direttore della comunicazione dell'Inter, Paolo Viganò, di poter ascoltare le interviste. Viganò ha dato l'ok e Ramazzotti è stato accompagnato davanti al pullman dall'addetto stampa dell'Atalanta, Andrea Lazzaroni. Davanti al pullman c'erano le telecamere e il collega di Inter Channel, Roberto Scarpini, era in attesa dei giocatori per le interviste. E cioè, com'è andata? Adesso traduco io molto brevemente. Visto che, a differenza dei tempi miei, con i giocatori non è più possibile avere un contatto diretto, perché la società decide lei chi ti manda su ed esclusivamente in sala stampa, mentre noi ai tempi nostri, passati per la verità da qualche annetto, ma insomma andavamo a cercarci i giocatori che ci veniva in mente di intervistare o comunque con cui fare quattro chiacchiere, uno scambio di quattro idee. Allora oggi cosa fanno? O sorteggiano o comunque si mettono d'accordo e a turno uno va davanti in questa postazione per ascoltare quello che questi giocatori dicono al microfono di Inter Channel, Juve Channel, Roma Channel, Milan Channel, insomma tutti i channel che hanno il diritto di avere il raro privilegio di ascoltare le dichiarazioni a caldo dei giocatori. Ricomincio col racconto di Alberto Polverosi. Mourinho, appena visto il collega, è sceso dal pullman e ha cominciato a insultarlo. Cosa ci fa lì quella frase offensiva che preferiamo non riportarla? La frase era figlio di puttana, comunque la dico io. Cosa ci fa lì quel figlio di puttana? Andrea è stato bravo a non reagire a un'offesa che non si è fermata, è rimasto freddo e impassibile. Anzi, gli ha risposto: mister, io non l'ho mai offesa. Mourinho ha invece proseguito in quel linguaggio mai sentito nell'epoca di Moratti: quella merda deve andare in sala stampa. Sono seguite altre intemperanze verbali, tutti testimoni, grida, eccetera, eccetera. Mourinho stava, insomma, spingendo via personalmente, quindi mettendo le mani addosso a questo cronista, quando è arrivato, richiamato alle urla, Gabriele Loriali, che è riuscito a stoppare Mourinho, a mettersi di mezzo e a riportarlo da un'altra parte. In serata Ramazzotti è stato raggiunto da una telefonata dell'amministratore delegato dell'Inter, Paolillo, che gli ha chiesto scusa. Moratti stamane ha detto: per il momento preferisco non commentare perché non ho ancora tutti gli elementi per poter giudicare. Gli interventi degli ascoltatori. Giovanni ha chiamato la Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io ho visto la partita del Milan ieri, sono tifoso milanista, e ho visto una squadra sinceramente molto sbilanciata. Vuoi un po' per il discorso della stanchezza dei centrocampisti, che è inevitabile dopo 10 partite in cui giocano sempre gli stessi. Volevo chiedere a lei se la pensa come me. L'arrivo di Beckham a gennaio, eventualmente al posto di uno dei due esterni, potrebbe dare un po' più di equilibrio alla squadra? L'ascolto per radio, grazie. Giovanni, no. No. Beckham non mi sembra un elemento di equilibrio. Non... E anzi, col modulo attuale già così sbilanciato, non so che operazione sia, o meglio, sappiamo benissimo che operazione sia, anche perché ci si poteva interrogare un anno fa sul perché o sul per come. Adesso questo è un replay e quindi mi sembra che tutto sia abbastanza chiaro ormai. Credo che non semplifichi, almeno sulla carta non dovrebbe semplificare le cose. Se poi invece lo farà, buon per il Milan, ma non mi sembra ancora una volta, anzi una volta di più, la pedina di cui il Milan aveva bisogno. Se parliamo dal punto di vista tecnico o tattico, se parliamo dal punto di vista del marketing, è un altro discorso, ed è per questo che questa operazione è stata non solo varata lo scorso anno, ma ripetuta adesso. Dalla Spezia ha chiamato Massimo, buongiorno. Buongiorno, Zanzini. Dica. Senta, io sono un tifoso juventino un po' abbacchiato e devo dire che di tutte le analisi che ho sentito su, diciamo, il problema della Juventus, c'è una cosa che è stata trattata secondo me in maniera un po' marginale, che secondo me però è fondamentale, cioè la preparazione atletica di questa squadra. Cioè, questa squadra è fisicamente chiaramente pesante, quindi se sbaglia la preparazione atletica, chiaramente i giocatori vanno in difficoltà. Io sento dire da più partite, specialmente da quella di Bordeaux in particolare, ma anche dai commentatori Sky, che vabbè, hanno anche giocato al pallone, per cui dire che sbagliano i tacchetti perché i giocatori da momento scivolano. Ma a me sembra che scivolano perché stanno partecipando alla reattività nelle gambe, né tanto meno la forza. Cioè, chi ha giocato, e poi senza contare il discorso degli infortuni, con Camoranesi penso che sarà il 30° infortunio, No, il 30, Massimo, è il 36esimo se per aggiornarle la tabella, salvo errori o omissioni. Comunque è come minimo il 36esimo, ma il numero credo proprio che sia quello. Beh, quello di Tacchetti era una discussione del dopo partita che ha sollevato Boban, ma era riferito a Bari, a una situazione contingente di sabato sera, perché il campo di Bari era veramente brutto, ma era brutto per tutti, era brutto per il Bari come era brutto per la Juventus, qualche scivolata di troppo, ma non è che la Juventus scivola la prima giornata adesso, scivolava l'altra sera in particolare, e tra Boban e Ferrara ho assistito a questo, insomma, a un breve siparietto sul problema dei Tacchetti. Sì, credo che la preparazione atletica sia un capitolo che varrebbe la pena di affrontare. Certamente l'aspetto clinico altrettanto, se non di più. Io ho visto persino, mi ha colpito una sequenza di sabato sera, e cioè che quando Camoranesi si è infortunato e è uscito a bordo campo, e c'erano medico e massaggiatore, direi, che stavano facendo cenno alla panchina di aspettare il cambio. Io, conoscendo, avendo visto il tipo di infortunio di Camoranesi molto di lontano, alla televisione addirittura, e conoscendo Camoranesi, che è uno che quando si fa male e sta giù, beh, insomma, ne ha probabilmente per un po', ho visto quel gesto verso Ferrara di aspettare a cambiare, e mi è sembrato abbastanza curioso. Quando stamattina ho letto che la prognosi è di mesi e non di settimane o di giorni, mi sono fatto un'altra serie di domande ancora. Gianluca da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Intanto stenderei un velo pietoso su Mourinho, non aggiungo parole, faccio un po' come Moratti. Volevo solo aggiungere una cosa a quanto lei ha detto a inizio trasmissione in relazione alle coppe che fanno male alle squadre italiane. Volevo aggiungere che il Barcellona ha vinto, il Real Madrid ha vinto, l'Arsenal ha vinto, il Bayern di Monaco ha vinto, le altre non so, per cui non so se è un male che colpisce solo le nostre, oppure sono più bravi gli altri, o se non vale nessuno di questi discorsi, ma è casualità pura. Ascolto per radio. No, ma lei ha perfettamente ragione. La spiegazione più gettonata di oggi è stata questa, e cioè che questo punto solo su 12 fosse dovuto all'usura di Champions. Probabilmente è anche vero, ma si vede che le nostre squadre accusano di più questo supplemento di fatiche. Io poi ne ho... Per le tre squadre, per Inter, Milan e Juventus, così, ho pensato anche ad un'altra. Ho pensato che finalmente il nostro campionato è bene arbitrato. Io lo so che adesso qualcuno farà un sobbalzo e penserà a una provocazione. Non lo è affatto. La giornata di ieri è stata ben arbitrata, anzi, molto ben arbitrata complessivamente. Poi con qualche errore che fa parte della fallibilità umana, ma se ci fate caso, il trattamento che quest'anno viene riservato nell'ordine di classifica Inter, Milan e Juventus è grosso modo il trattamento che viene riservato alle altre, grosso modo. E nel senso che ieri a Bergamo è stato espulso un giocatore dell'Inter, a mio parere, a parere di quasi tutti i commentatori, giustamente, perché ha commesso due falli d'ammonizione, sicché due volte è stato ammonito. Il Milan ha avuto nel primo tempo un episodio che si prestava a un eventuale calcio di rigore, e invece l'assistente ha ispirato all'arbitro Bergonzi, peraltro bravissimo ieri in particolare, ha suggerito che il primo a cominciare il fallo era stato Boriello. L'altra sera a Bari la Juventus, dei due rigori probabilmente quello concesso poi alla Juve era quello leggermente più abbondante, ma in ogni caso nel primo tempo l'arbitro non ha esitato a concedere un rigore al Bari in occasione del primo contatto sospetto o più che sospetto nell'area della Juventus. Bene, io dico che queste cose non sono tanto, non ci siamo tanto abituati, e probabilmente anche queste tre squadre non ci sono tanto abituate, però mi sembra che finalmente in Italia da qualche tempo a questa parte si attui la parità di trattamento. Non c'è stata la scorsa domenica tra Inter e Juve, perché era un confronto diretto tra loro e l'arbitro Saccani ha concesso troppo dal punto di vista disciplinare a queste due squadre, ma mi sembra che se noi esaminiamo il cammino del campionato di quest'anno vada dato atto a Collina di aver impostato un'ottica diversa. E ieri c'erano 7 arbitri giovani su 10, faceva notare Casarin stamane su Corriere della Sera, e tutti più o meno hanno arbitrato bene o abbastanza bene o molto bene. ma soprattutto, ripeto, non c'è più questo fenomeno per cui le partite come quelle di ieri, di un tempo, bene o male venivano magari risolte perché c'era l'aiutino. Quest'anno non c'è, o perlomeno in questa fase non c'è. Mi sembra molto ma molto interessante questo ragionamento. Cristian, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini, grazie per avermi richiamato. Io sono sempre stato, diciamo così, ho sempre apprezzato i giocatori slavi, diciamo così, per il loro talento. E ieri, vedendo il gol di Kolarov, noto che questo ragazzo calcia la palla in maniera fantastica. Secondo me c'è poca gente al mondo che calcia la palla come lui. Volevo sapere cosa ne pensa lei di come calcia la palla Kolarov. Ah, la calcia bene, non c'è nessun dubbio. La calcia con un piede solo, perché con l'altro scende dal letto, come si dice, no? In questi casi, nel senso che è un mancino integrale. Però la calcia molto bene. Ieri il gol l'ha infilato da una posizione molto, molto, molto difficile, in condizioni non semplici, perché l'avversario l'aveva spostato, pressato, insomma gliel'aveva fatte un po' di tutti i colori, non riuscendo a stenderlo prima dell'area, quindi bravissimo. Diciamo che Kolarov semmai ogni tanto esagera nel calciare, perché sa di avere questa qualità, ogni tanto la sfrutta un tantino in eccesso, ma averne di battitori dalla distanza di quella levatura. A proposito di arbitri, fa notare Nicola, ha visto che sul primo gol di Milan-Palermo l'arbitro ha concesso il vantaggio per un chiaro rigore su Cavani? L'ho visto, sì, e infatti anche questo è un altro segnale di buon arbitraggio, non c'è dubbio su questo. Walter, tifoso juventino, scrive: abbiamo Ferrara, due punti virgolette, abbiamo perso 3-1 ma abbiamo giocato bene. Chiusa le virgolette. A me viene spontanea la domanda: e se giocavamo male? Beh, se giocavamo male magari... mi metto nei panni di Ferrara, magari si perdeva alla stessa maniera o si perdeva in maniera anche più netta, però io credo che Ferrara tutti i torti non li avesse, insomma. Credo che la fragilità della difesa juventina sia qualcosa di veramente inquietante, e su questo non c'è dubbio. L'imprecisione della squadra negli ultimi 16 metri altrettanto, e anche su questo non c'è dubbio. Che però la partita della Juve a Bari l'altra sera, insomma, dovesse finire 3-1 per il Bari, insomma, l'ho trovato uno di, insomma, è uno di quei momenti in cui le cose girano così. A me piacerebbe che ci sarebbe una controprova da fare in questi casi: mettere uno che non ha visto la partita davanti alla TV, fargli vedere tutte le azioni da gol, ma interrompere nel momento in cui uno batte il pallone verso rete. Poi alla fine gli si fa una domanda e gli si dice: come è finita secondo te questa partita? Beh, secondo me 3-1 per i Bari non lo scriveva nessuno. Poi è ovvio che se uno dei tuoi talenti principali prende e calcia un rigore che sembra una trasformazione di una meta, allora tutto questo comincia un tantinello a complicarsi, insomma. Sergio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, le volevo chiedere questo: come mai secondo lei Guidolin non sia mai stato valutato in effetti per le sue qualità, visti i risultati di Vicenza, Palermo e quello che sta facendo adesso a Parma? E un'altra cosa, chiedevo se anche lei era riuscito ad apprezzare l'atto di sportività di Criscito in Lazio-Genoa sì, ieri. Sì, sì, sì. Grazie. L'ho apprezzato molto, Sergio. Infatti io sarei per le 3 giornate in questi casi. Cioè, credo che sia uno di quei casi in cui il giudice sportivo dovrebbe apprezzarli a sua volta, questi atti, riprendere in mano finalmente la prova TV e dire: ah, ti è arrivata questa mezza sbella di Zarate. Per carità, Zarate una giornata, gli starebbe benissimo, perché non si prende a manata un avversario, ma insomma gli dà questa manata sul petto e Criscito a scoppio ritardato stramazza portandosi la faccia sul naso, cioè portandosi le mani sul naso. Veramente una scena molto brutta, trattandosi poi di un ragazzo e di un ragazzo di qualità, sanzione aggravata pare il mio, perché insomma quelli che non vale più la pena recuperare lasciamoli perdere, ma quelli su cui invece si può ancora lavorare nel senso migliore per insegnargli i fondamentali del vivere civile anche su un campo di calcio, beh, insomma, andrebbero stangati di conseguenza. Quindi se dipendesse da me, Criscito 3 giornate. Cristiano, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno e complimenti per nostra trasmissione. Se sono dall'inizio del campionato, è già la quarta o quinta volta che ci sentiamo. Sono tifoso juventino e vabbè. Quindi vuol dire che il filtro, vuol dire che il filtro centralino non funziona benissimo. Perché in genere cerchiamo. No, funziona benissimo, funziona, cerchiamo di alternare. Oggi la rosa si sentirà le sue, sto scherzando. Dica Cristiano. No, niente, praticamente che non mi è mai piaciuta questa Juventus fin dalle prime battute, diciamo, contro la Roma, perché l'ho sempre vista un po' scarna. Volevo chiedere una cosa. Ieri, dopo è stata Roma-Sampdoria, c'è stata questa intervista, diciamo, questo prologo alla TV con Ranieri, che parlava anche di uno spezzettone della Juventus. Praticamente, da quello che ho potuto capire, perché mentre lui stava parlando, ho capito il motivo perché è stato esonerato, secondo me, perché Secco ha voluto Diego mentre lui non lo voleva assolutamente, perché doveva giocare con il rombo. E ieri praticamente ha fatto proprio capire che la Juventus, giocando con Diego e quindi optando al rombo, va a perdere quelle, diciamo, quei meccanismi che ormai aveva da anni immagazzinato col 4-4-2. Cosa che cosa comporta? Comporta queste uscite di scena veramente ignobili, vergognose, ma non da parte dei giocatori, perché i giocatori secondo me ci mettono grinta, ci mettono voglia, è proprio che gli manca un qualcosa che faccia girare, sì, il tutto. Sì, sì, Cristiano, sì, tutto abbastanza vero, ma in questo momento vale più o meno tutto. Non credo, però, l'intervista di Ranieri, stranamente ieri sera l'ho sentita, e non ha detto né ha fatto capire questa è una sua libera interpretazione. Credo che la sopravvivenza di Ranieri alla Juventus fosse comunque preclusa da tanti altri fattori, compreso l'andar dietro una società come la Juventus a una campagna di stampa di un quotidiano sportivo dalla resistibile credibilità, e questo cosa che durava, che è durata per mesi. A quel punto, quando si è cominciato a parlare di Diego piuttosto che di un altro, Ranieri era già fuori, e comunque Ranieri semmai ha pagato una crisi prolungata della Juventus a primavera, e quello poteva integrare, non alla Juventus, in un'altra società qualunque, poteva integrare un provvedimento estremo quale quello adottato nei suoi confronti, ma il linciaggio a cui era stato sottoposto nei mesi autunnali e invernali non c'entrava nulla né con Diego né con altre valutazioni di quel genere, né con altre proiezioni nel futuro, intendo. Marco da Pisa, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, niente, io seguo la Fiorentina da tanti anni, quest'anno il gioco è migliorato, e volevo dire, no, della partita di ieri. E non so se l'ha vista, e praticamente comunque la Fiorentina è arrivata stanchissima, Chievo aveva molto più gamba e arrivava sempre su palloni, però il campo era una cosa indecente, sì. Quando c'erano giocatori di qualità, Montolivo, non avevano forse la stanchezza, ma si vedeva proprio che il secondo controllo non lo potevano mai fare, perché la palla rimbalzava in maniera strana, vedeva Santana che buttava il pallone, ritrovava il pallone, era una cosa, secondo me, si spende tanti soldi, ci danno questo, dicono, lo spettacolo più bello del mondo, ma vedere partite come quella di ieri sono un po' bruttine, via. Sì, il campo di Verona, sono d'accordo con lei, è indecente come indecente era quello di Bari, ma non sono mica gli unici, forse si fa prima a fare la cernita di quelli buoni, di quelli su cui si può giocare un bel calcio. Detto questo, la Fiorentina ha qualche problema di organico in questo momento, no? I Mutu, Jovetic, insomma, i giocatori, Zanetti anche ieri, i giocatori che non possono dare ricambio, e questo spiega il perché la Fiorentina abbia accusato quella fatica. Detto questo, chapeau per aver passato il turno in Coppa in un girone in cui c'era dentro anche il Liverpool, e averlo eliminato personalmente, perché è stata la Fiorentina ad aver eliminato il Liverpool, non altri. Ma quando poi leggo la classifica e vedo che la Fiorentina ha gli stessi punti del Bari e del Chievo, chapeau al Bari e al Chievo, alla Fiorentina un tantinello meno, secondo me. Mario da Genova, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Brevemente, velocemente, in un minuto, mi faccia dire com'era vissuta la partita allo stadio 60 anni fa. Dunque, ricordo che si andava al Ferraris anche in 50.000, pigiati con maciughe, in una gradinata a picco, senza ringhiere protettive e senza vie di fuga. Eppure per noi era normale e non succedeva mai nulla. I poliziotti erano solo 6 e tutti all'interno del terreno di gioco. Al termine della partita ognuno felice o deluso se ne tornava a casa. Oggi dove si vuol far passare l'anarchia della violenza per democrazia e libertà, si vedono bande di individui che vanno allo stadio con bombe, razzi, fumogeni, bastoni e quant'altro per fare guerriglia. A questi individui non frega niente della partita, come di nessun'altra cosa, mi scusi un po' l'emozione. Dove c'è folla loro si trovano bene per sfogare la loro violenza. Non crede che tornare ad aver paura di essere puniti si viverebbe un po' meglio a tutti? Grazie per avermi ascoltato, buongiorno. Grazie, grazie a lei Mauro, che Mario, che bel intervento il suo, che tuffo nel passato indubbiamente, però è passato, non torna. Lei ha fatto anche una proposta, certo, una proposta utopica. Bisognerebbe tornare a insegnare l'educazione come base nei campi, ma non solo nei campi, no? Mi pare che succedano cose un tantinello eccessive, non soltanto nel calcio, ma anche fuori, come forse avrà visto e sentito nelle ultime ore. Ci sono da ripassare i fondamentali. Ecco, una volta Lidl i suoi giocatori li metteva al muro a ripassare i fondamentali, perché sosteneva che calciare il pallone contro il muro era l'avversario più impegnativo. Il muro era l'avversario più impegnativo che ti potesse toccare. Questo valeva anche per generazioni di tennisti. Però questo vale per i fondamentali tecnici, invece i fondamentali dell'educazione, del saper vivere, no, purtroppo non c'è nessun muro, e se ci sono dei muri è meglio lasciarli perdere e non pensarci nemmeno. Matteo Perugia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buona giornata. Volevo chiederle una cosa, se anche io sono juventino, che lei ha notato che nel DNA dei dirigenti Juve c'è questa capacità di prendere a pesci in faccia gli allenatori che sono anche delle brave persone, ricordo Ancelotti, ricordo Ranieri e anche Prandelli, che fu opzionato da Moggi poco prima poi di assumere Capello, e in questi giorni insomma ho notato questa cosa, mi sono tornata alla mente queste esperienze. E poi, siccome lei sicuramente leggerà più giornali di me, se le risulta che quest'anno ci sia una campagna stampa da parte di un giornale, un quotidiano sportivo di Torino, denigratoria su Ferrara come lo fu l'anno scorso su Ranieri, visto che a conti fatti, e questo credo che sia tempo giusto per fare bilanci, stiamo facendo una stagione peggiore di quella dell'anno scorso. La ringrazio, arrivederci. Grazie a lei Matteo. No, non mi risultano campagne. Di sicuro mi risulta che la Juventus ha 3 punti in meno rispetto a un anno fa con l'esecrabile Ranieri, e che con la ulteriore, perché 3 punti vanno e vengono, sono sempre 3 punti su 30, è un 10%, ma, o su 32 forse un po' meno, ma quanti ne ha la Juve? La Juve ne ha 30, no, quindi è un 10%, ma non è ancora quello, è che l'incapace Ranieri comunque si era qualificato con la Juve, la sua Juve si era qualificata per gli ottavi di finale di Champions, battendo all'andata e al ritorno il Real Madrid. Quest'anno è andata in maniera un tantinello diversa. È il momento del ripasso della storia. Che cosa è accaduto il 14 dicembre di un certo anno con Nicola Filippone? Sembra ieri. 14 dicembre 1947. L'Italia, reduce da una sconfitta per 5-1 contro l'Austria, si riscatta a Bari battendo la Cecoslovacchia per 3-1, grazie alle reti dei granata Menti e Gabetto e del milanista Carapellese. Nell'occasione, il CT Pozzo fa esordire 2 giocatori, Carlo Annovazzi, del Milan, e il portiere Valerio Bacigalupo, undicesimo elemento del grande Torino ad approdare in nazionale. Dopo la prova convincente offerta contro i cecoslovacchi, Bacigalupo diventerà il portiere titolare al posto di Sentimenti Quarto. E questa era la storia. La cronaca di oggi invece dice che sono 3 gli anni di reclusione inflitti ad Antonio Giraudo. È la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari De Gregorio nell'ambito del procedimento nei confronti degli imputati di Calciopoli, che hanno scelto il rito abbreviato. L'accusa aveva chiesto 5 anni, ripeto, la condanna è stata a 3. Sono stati inoltre condannati l'ex presidente dell'AIA Lanese, l'ex arbitro Dondarini, a 2 anni di reclusione ciascuno, 2 anni e 4 mesi per l'altro ex arbitro Tiziano Pieri. Assolti invece gli ex arbitri Cassarà, Gabriele e Messina e gli ex assistenti Baglioni, Foschetti e Alessandro Griselli. Sto guardando se ci sono, sì, queste sono le assoluzioni. Il GUP Edoardo De Gregorio nella sentenza, con rito abbreviato, ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione per delinquere che avrebbe condizionato gli esiti del campionato di calcio. Massimo da Ascoli, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Senta, io sono un tifoso laziale, quindi non so se sarò completamente oggettivo e per questo mi rimetto al suo giudizio. Ieri sono rimasto profondamente deluso dalle dichiarazioni di Gasperini nel post partita. Io la partita l'ho vista, l'arbitraggio di Cieli non mi è sembrato scandaloso, soprattutto alla luce di come gioca il Genoa, che a me piace, è una squadra aggressiva che gioca sempre sull'anticipo. Capita che possano fare molti falli, che ci possano essere diversi cartellini, quindi l'arbitraggio, ripeto, non mi è sembrato scandaloso. No, fatto scandaloso, però... Casalingo sì, ma è... Guardi, ma è normale, vai a giocare sul campo di una squadra in difficoltà e può capitare un arbitraggio casalingo, ma non vuol dire casalingo prevenuto, vuol dire che le cose girano così e vuol dire che Gasperini se ne lamenta. Se ne è lamentato in un tono e in una misura certamente eccessiva, anche perché ricordo arbitraggi casalinghi anche a Marassi, e quindi non è questo che dà il segnale di una stagione arbitrale. Queste cose accadono, accadevano e accadranno sempre. Diverso è invece quel ragionamento che facevo prima su invece un trattamento complessivo che dopo 16 giornate rispetto alle grandi, dopo 16 giornate è un ragionamento che secondo me si può cominciare a fare e secondo me torna a merito degli arbitri che ci sono oggi. Se poi volete collegare questa mia valutazione con le notizie che vi ho appena letto sulla sentenza di Calciopoli, per chi aveva scelto il rito abbreviato, beh, insomma è evidente che l'una cosa non è poi così disgiunta dall'altra, ma ci vuole ovviamente tempo per ripulire un ambiente e adesso mi sembra che grosso modo ci siamo. Da Caserta ha chiamato Sergio, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare i complimenti per la trasmissione, che è bellissima, la sento tutti i giorni, anche lei che la sento già da anni, anche dai tempi del processo e via discorrendo. Io volevo porre due domande. Allora, la prima, che i toni sono troppo alti. Io penso che, come anche nella società civile, si vede, quindi i toni sono altissimi e secondo me dobbiamo un po' calare tutti, anche per quello che è successo per il mio Napoli, perché io chiamo per il Napoli. Io la colpa non la do solo al Cellino o all'Allegri, che si è comportato malissimo secondo me, ma anche De Laurentiis, che spesso per gli arbitraggi usa dei toni alti, perché si ha e si dà, perché l'ha detto prima lei. In 16 partite si possono avere delle cose buone, positive e delle cose negative. E poi le volevo chiedere un'altra cosa, sul mio Napoli, sulla mia squadra, secondo lei se con degli acquisti a gennaio mirati si può puntare diciamo definitivamente sull'Europa? Ma io penso che con l'equilibrio che c'è adesso già questo Napoli possa tranquillamente puntare all'Europa. C'è già praticamente, perché è a 24 punti, questa mucchiata a quota 24 ha fatto una grande rimonta da quando è arrivato Mazzarri, mi pare ci possa arrivare. Probabilmente sì, può darsi che qualche rinforzo arrivi, non sono pratico sinceramente di arrivi e partenze. Non so se hanno intenzione di rinforzarlo o meno, avevano fatto investimenti abbastanza notevoli in estate, quindi non so se avranno le risorse o la voglia comunque di continuare su questo piano. Il Napoli deve, insomma, forse essere un pochino più cinico nel chiudere certe partite, perché insomma, il 2-0, io ho visto per intero Cagliari-Napoli, è stata una delle partite più belle di quest'anno. Il Napoli l'ha dominata per 3/4 almeno, ma proprio dominata, e l'ha giustamente riagguantata nel finale, però ha avuto un passaggio a vuoto. Detto questo, il passaggio a vuoto abbastanza lungo che ha avuto è stato riempito da 3 gol del Cagliari in un quarto d'ora scarso spettacolosi, cioè veramente uno più bello dell'altro, sicché ci sono poi anche le giornate in cui i tuoi momentanei demeriti in realtà sono dovuti anche a grandi meriti altrui. Parlavamo di Lazio prima e mi piacerebbe sentire la voce di Ballardini dopo la boccata di ossigeno di questo Genoa-Lazio. Questo è un gruppo che ha dimostrato di avere attaccamento, cuore e anche a tratti di saper giocare. Vittoria molto importante per come è venuta, per le difficoltà che c'erano, per il tempo così, il tanto tempo passato senza vittorie. È un campionato che le squadre medie, le medio-alte non hanno così tanti punti e... È anche vero però che ci sono le squadre sotto che sono altrettanto competitive, quindi quest'anno credo rispetto agli anni passati tutte sono attrezzate per poter fare risultato contro tutti e in qualsiasi campo. L'ascoltatore da Udine, da Verona, fa notare che se Mourinho è l'uomo che dovrebbe educare Balotelli, beh insomma qualche problemino forse di educazione Balotelli potrebbe continuare ad averlo. Anzi, è Oreste da Treviso che firma questo messaggio, che condivido al 2000%, così a grandi linee. Massimo ha chiamato da Bari, buongiorno. Massimo, dica. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Anzitutto complimenti per i toni moderati e la professionalità. Senta, poi volevo parlarle del Bari per dirle che secondo me molti meriti del gioco attuale della squadra risalgono all'impostazione che ha dato Antonio Conte, cioè gioco palla a terra, gioco organizzato, nessun lancio lungo, gioco sulle fasce con due giocatori velocissimi, risalgono all'impostazione che ha dato Conte. Poi Ventura è stato bravissimo a non smentire, cosa ormai rara con i predecessori, a non smentire questa impostazione e ad affinarla probabilmente. Volevo sapere lei che cosa ne pensa. Io penso che dal primo giorno che mi capita di parlare del Bari, e quindi dalla prima giornata dopo quella magnifica esibizione a San Siro contro l'Inter, doppiata poi da quella col Milan molto tempo dopo, da allora ogni volta che parlo del Bari ricordo i meriti, personalmente i meriti oggettivi di Conte in questo lavoro di impostazione, ma più passa il tempo e più credo che non che sia giusto dimenticare i meriti di Conte, ma sia giusto sottolineare i meriti crescenti di Ventura, perché se Ventura ha ereditato una squadra ben assemblata e ben pensata, e su questo non c'è alcun dubbio, è anche vero che appunto più passano le giornate e più sono i suoi meriti a venire fuori, intanto per un po' di integralismo in meno rispetto al modo di interpretare il modulo che poteva avere un allenatore come Conte, e poi perché mi sembra che il Bari stia riuscendo a essere così duttile da poter fare a meno anche di tanti titolari, come è successo l'altra sera in difesa giocando contro la Juventus. Allora questo sarà anche frutto del passato, ma è merito anche di un grande presente e di un modo di vivere il calcio in maniera molto, molto ragionata, insomma, molto, molto pragmatica. E in questo credo che appunto da questo punto di vista che i meriti siano principalmente di Ventura. Mi pare che per oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, quindi grazie a tutti voi che siete intervenuti. Appuntamento a domani, in particolare, ma non solo, con il calcio internazionale, l'appuntamento classico del martedì. Grazie a Franco Piantanida che è in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Vi lascio al giornale radio.